Allora sono Moratti Carla, di anni 88 domani. Allora dove cominciamo? Quando andavo a scuola o no? Ah sì? Quando andavamo a scuola non c'erano salotti, non salotti come adesso, le stufe elettriche, no. C'era il camino, la fornella, oppure la stalla dei vicini di casa, perché non era neanche nostra, era dei vicini di casa, la stalla col bue e l'asinello. O la mucca. E se non si andava a scuola, andavamo lì a riscaldarci noi fratelli perché eravamo 11 fratelli. E allora su 11, 4-5 che andavano a scuola, uno o due era anche ammalato. Non poteva stare in cucina dalla mamma, andava in questa stalla a giocare o alla tombola o alle carte, si stava lì a giocare. Si andava in campagna con le capre, si andava a raccogliere. Allora dicevamo le sarmente, i Tralci tralci, della ecco i vita. tralci, si facevano delle piccole fascine di legna per portare a casa, per riscaldare questa cucina, le camere, perché c'era mica come adesso il riscaldamento, sai. C'era un scaldaletto, gli diceva, un attrezzo in Ah, è rame vero. con i buchi sopra, si metteva la cenere e le braci e Le braccia. si scaldava il letto perché... Allora sognavano e poi si raccoglievano le olive o le susine. Tante dalle scuole da cogliere un po' di legno, facevate qualcos'altro, non so, giochi, robe del genere? Giochi, sognarli i giochi. Non Scuola, c'era i tempo, 10 minuti a scuola scuola. e giochi. E te tireva le recce se non te gavi dritto anche il quaderno? La domanda era, quando dimenticavano qualcosa, si vanno a casa a prendere o no? Ti mandavano a casa a prendere il quaderno o la penna o la matita, la gomma, bisognava andare a casa a prendere. E la cartella non era come avete adesso voi, tutta moderna. Era una piccola cartella di tela fatta dalla mamma. E anche già i genitori non stavano proprio bene, bene, bene. Adesso siete dei grandi signori. Ma voi aspettavate mai, non so, Santa Lucia, Babbo Natale o... Sì, l'aspettavamo, ma sai cosa c'era nel Nel piatto? mialetto. Nel piatto c'erano due margarani, Ah, qui. due mele, sì e no una bambolina fatta di tela dalla nonna o dalla mamma, una piccola bambolina, mica di quelle di negozio, no? Magari c'erano anche due fichi secchi, due susine secche che avevano appiccato i genitori in casa. Poi i quaderni magari, Qualche regalati. quaderno, sì, qualche quaderno, Quaderni, secondo dai. i soldi che avevano i genitori. Prego, Dai, dimmi, cosa volete sapere? Dimmi. Zelinda Matteotti. E sono nata in Canada e sono tornata che avevo 7 anni. Sapevo un po' di inglese, mio fratello era più grande, mi avrebbe parlato in inglese, ma la mia mamma non voleva, perché diceva, adesso siamo in Italia, parlate italiano. Peccato, eh? E così me lo sono scordata. Oppure mi sono rimasta in testa solo le parole più brutte. Non ce ne può dire una, no? Sì, come no, dai. Mi vergogno. No, no. Allora, mio fratello mi diceva Monkey Donkey, che sarebbe scimmia, e dopo l'altra non lo saprei. Asino, scimmia. Allora, si mangiava i prodotti delle nostre campagne. Sempre fagioli, patate, zucca, Polenta. polenta a pranzo, polenta a cena e polenta a colazione, col caffè latte se andava bene. E poi parlavi dei giochi, noi ci fermavamo a giocare con le palline, facevamo un buchino nel terreno e buttavamo queste palline nel buchino. Le dita ci venivano tutte nere. Quando andavamo a scuola, la maestra voleva che mettessimo le mani sul banco per vedere se le mani erano pulite. E noi facevamo così, per pulirli. Se giocavamo la tombola non c'erano i soldi per pagare la cartella, ma mettevamo su un santino, una cartolina, adoperavamo quello che avevamo in casa, insomma, ecco. Niente di straordinario. Santoni Arnaldo, fatto adesso i 75 anni, gran parte del periodo di scuola elementare si andava scalzi, proprio scalzi, no? Anche in chiesa, perché non c'era denaro da comprare le scarpe, visto com'è. E poi si andava a Pasqua con le capre, come ha detto la signora Carla. I giochi erano proprio gli elementari giochi tra bambini, insomma. Non c'era nessuna attrezzatura. Nascondino, si giocava, sì. E sempre la sera si andava nella stalla per passare 2 ore, dopo si andava a dormire. Ma dove dormivo io si vedevano le stelle. Dal letto si vedevano le stelle. Non so se mi spiego. C'erano i buchi sul tetto e si vedevano le stelle. Quando pioveva si poteva andare a prendere dei secchi che non c'erano. Allora non c'era un secchio in assoluto, capito com'è? Era difficile andare avanti, insomma. Le finestre erano senza vetri e ci mettevamo su una carta trasparente o meno. Sì, non c'era perché... denaro, non c'era denaro, capisci com'è? Ma la maggior parte della gente, non solo io, la mia famiglia, la maggior parte, cioè... intorno al 70-80% delle famiglie era poverissima. Il vaso da notte, sai cos'era il vaso da notte? Che adesso non saprei neanche, dei recipienti che contenevano la conserva, un bandino così alto così, rotondo, e noi eravamo tutti questi figli, eravamo in tanti, non ce n'erano vasi da notte, no? Allora metteva il manico a questo secchio, e avevamo lì in casa magari 3-4 di questi secchi, perché con tanti bambini ci voleva anche tanti vasi da notte, non ce n'erano. Era una mattina prima di andare a scuola, vai a vuotarti il bandino. Quando andavamo a pascolo con le capre si mangiava un sacco di frutti selvatici, che adesso non esistono più neanche quelli. Ma c'era un sacco di frutti selvatici, a parte le castagne, le nocciole. C'erano le diverse bacche che si mangiavano, che a volte le ricordiamo con dei miei amici. Non ci sono più, andiamo alla ricerca per vedere, non si trovano più questi frutti. E praticamente mangiavamo più frutti di quelli sugli alberi non coltivati. Si giocava a pallone, si giocava come voi in pratica. Un cerchio, voglio dire. Ma il pallone, è difficile avere un pallone gonfiato. Si trovava degli stracci a fare la palla. Si giocava attraverso la nazionale, perché era qua. Ero a Ceniga, attraverso la nazionale, una porta era dalla parte della nazionale e una dall'altra, pensa quanto che traffico che c'era. C'era uno lì a Ceniga, un vecchietto, che faceva le trottole, metteva una brocca sotto e con la scuria si faceva andare questa trottola. Non so se hai visto ancora. Sì. Ecco, c'era anche allora. Ma la carne dove la trovavate? La carne? Mio padre aveva qualche coniglio. Qualche coniglio, qualche capra, ma poca roba. La domenica. Forse. La domenica, brodo di carne adesso. Io mi chiamo Benuzzi Corinna e ho 88 anni, tra poco. E prima volevo studiare e non ho potuto perché non mi hanno comperato la bicicletta per andare a studiare. Volevo fare la maestra. Allora sono andata a servizio, sono stata 2 anni qua nel mio paese, 2 anni a Arco e 3 anni in Svizzera. Ho lavorato, sono tornata dalla Svizzera e avevo 19 anni. Mi volevano bene, mi sono trovata bene, poi sono venuta e mi sono sposata. E sono stata però dalla Svizzera, mi sono adattata a tutto, ho trovato la mucca, il bue e la stalla, che abito qua io, in Vicolo Termine. E sono stata lì 60 anni, e sono lì ancora. Ho fatto 60 anni sposata. Adesso mio marito non c'è più, e allora però ho 4 figli. anche. E io vivo qua, da sola, nella mia casa, dove ho trovato le galline, i conigli, avevo la mucca e il bue, e da tagliare la roba da darli da mangiare alle bestie. E poi avevo i pulcini piccolini, belli. Sto andando avanti perché sono sola adesso, ecco. Però i miei figli vengono sempre, tutti i giorni.